Ringrazio tantissimo i nostri ospiti. Allora, innanzitutto Bruna Maria Dalla Governi, che conoscete. È da tanti, tanti anni che ci accompagna con la sua creatività, con la sua professionalità, conoscenza, competenza, e ha una produzione letteraria direi vastissima, ma soprattutto quello che colpisce è la capacità anche di muoversi in settori e toccare dei canoni completamente diversi l'uno dall'altro, no? Quindi questa sera conosceremo la parte musicale, poetica più alta di Bruna Maria con i poemi epici delle Dolomiti. Ringrazio Marina Michielotto, qui abbiamo un parterre femminile, questo mi fa particolarmente piacere. Ecco, Marina Michielotto, che anche conosciamo come narratrice, come scrittrice, e che ci ha tenuto compagnia anche lei durante il lockdown con dei video come Bruna Maria, come Rosetta Infelice Bronza, come Maria Pia Zanetti. Insomma, abbiamo avuto con loro la possibilità di trascorrere anche un lockdown costruttivo e in contatto. Abbiamo appunto Maria Pia Zanetti, che conoscete, la nostra voce, ha dato voce anche a tante letture in questi anni per la biblioteca, la ringrazio tantissimo per la sua professionalità. Ma questa sera abbiamo anche la musica, e abbiamo in particolare il maestro Isgro, che ho visto prima. C'è ancora? C'è il maestro? Eccolo. Bellissimo. Buonasera, grazie. Bella. Conservatorio Monteverdi, grazie. Abbiamo il professor Ennio Capace, il nostro tenore, maestro, eccolo, buonasera, grazie. E abbiamo anche la cantante, che ho visto prima, c'era. È Lin Mensun. Ecco. Come potete immaginare, una serata che si presenta con tutti gli ingredienti della magia pura, quindi non aggiungo altro. Lascio la parola alle nostre ospiti, che ringrazio ancora e in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Io voglio dire che anche l'editore qui con noi ci ha fatto rodi, io non lo voglio quella roba lì. Va bene. Non lo voglio. Ecco, c'è anche il nostro editore, Luigi Reverdito, a cui ringraziamo moltissimo. Ecco, per essere amici infiniti, come vedete, ecco. Per quanto posto, ecco, posso togliere una scena? Sì, che bello, che piacere, oh che gioia, che piacere. Ecco, allora, questa avevamo una certa scaletta così, ma per questioni anche di necessità, cambiamo tutto, cominciamo con la fine, cioè cominciamo con il secondo dei poemi epici, cioè con il Laurino, e soprattutto presentiamo in musica questo personaggio, Re Laurino. Molto piacere, dove è andato a finire il maestro lì? Vieni, e anche il nostro tenore, e cominciamo con questo e poi andiamo a ruota libera su un mucchio di altre cose. Ecco, vai con la musica, vadi. Ecco. Che bello. Bella ragazza, tu dopo però, tu dopo. Non dite che non siamo così fuori. Se vuoi possiamo. Via. Mi giro? Mi secca non girarmi, ma non so come girarmi. La poltrona. No. Thank you. Io sono Laurino, il gran re mago, signor del Rosengarten, signor di questi monti, signor di queste valli. Mia è questa terra, mie le sue genti, io sono Laurino, il gran re mago, comando la natura, il vento di primavera che gonfia le alte nubi, gli uccelli migratori per me son tornati. Nessuno ha mai osato entrar nel mio regno, timor io incuto, avvolto nel mio mantello, mia forza è la cintura, la spada che sono Laurino, il gran re mago, signor del Rosengarten. Di chi è questo, chi sono questi personaggi di cui parliamo? Questo è il nostro re mago, questo è il grande Laurino e questa è la nostra grande Ladinia. Grazie. Bene, cominciamo. Dopo parleremo nuovamente di re Laurino, certo. Non mi sentite? Oh là là. Anch'io non è che adoro questo. Va meglio? Io volevo iniziare con il primo ricordo che ho di Bruna Maria, anni 80, il teatro di Gries, pieno di ragazzini della scuola elementare portati lì ad assistere allo spettacolo mattutino. Allora immaginatevi questo teatro pienissimo, tutti questi ragazzini urlanti, il palcoscenico completamente vuoto, solamente una sedia. Ma si pensava. Poi finalmente le luci si abbassano ed entra una signora, si siede po' di silenzio, non tanto, e poi inizia a raccontare. Inizia a raccontare di guerrieri, di re, di principi, di principesse, di nani, di rose, di oggetti magici, e la magia sembra scendere quasi dal palco e andare verso tutti i bambini, verso tutti i presenti. C'è un silenzio assoluto, siamo tutti nelle valli e nelle montagne insieme a lei. Questo è il primo grazie. Ricordo che ho io che commozione, di grazie, Anna Maria, grazie. Che ancora. Mi commuovi veramente, grazie. È veramente una cosa che dopo tanti anni, ecco, sì. È stata proprio bella. Eravamo più giovani. qualche annetto fa. Allora, salto tutte le presentazioni perché ha detto tutto già. Per cui, allora, io ho letto sempre i tuoi libri, non tutti, però quasi tutti, pensandoli saggi ma anche romanzi, perché sono chiaramente perfetti e dal punto di vista della ricerca, però hanno una scrittura molto scorrevole, molto, molto piacevole, molto, molto bella. E le leggende saltano proprio fuori dalle pagine, e immergono in questo tempo magico dove non esiste un quando. Lassù, sulle alte conturines, dove ora ci sono solo cespugli e rocce, in un'arena che ancora oggi porta il nome di Parlamento delle Marmotte, tanto tempo fa c'era un regno incantato, con città e villaggi e campi coltivati. Conturin era il cuore di questo paese, che si chiamava Fanis, e Fanes i suoi abitanti. Fanis aveva valli e montagne, pianure e strade, fiumi e laghi e boschi, ed era così vasto che i suoi confini arrivavano alla Limidona, la grande distesa d'acqua al di là delle sette montagne di vetro, oltre le sette paludi al confine del mondo. Il popolo dei Fanes aveva una regina che abitava nel castello sulle montagne, e il castello era così grande che per girarlo tutto, dalle cucine alle stalle, ci volevano sette giorni. Grazie. Grazie. Bravo. Grazie. Vai. Cominciamo un po' con le domande. Allora, vorrei parlare proprio del tuo bisogno di scrivere, di documentare, di testimoniare o dare ancoraggio, appunto, alla memoria di queste terre. Da dove nasce? Come mai? Sai, queste sono le mie terre, ragion per cui andare a ricercare l'origine è come come cercare di trovare una soluzione a questi momenti, che sono poi tanti, questi momenti molto difficili, e tornare alle origini vuol dire appunto cercare di trovare noi stessi. E l'altro ieri, proprio l'altro giorno, in una trasmissione di Reporter, Rumiz ha detto questa frase che mi sembra meravigliosa riguardo al suo libro sulla origine dell'Europa e al suo articolo bellissimo su Repubblica, che era appunto un requiem per l'Europa. Dice: quando tutte le cose attorno quando tutto ti casca addosso, ti aggrappi alle origini, ti aggrappi al mito. Ecco, questa è la frase che mi è sembrata così importante ed è quella sulla quale io mi baso. Io mi attacco al mito per cercare di trovare uno spazio di bellezza, se volete questa parola. La bellezza ci salverà, speriamo di sì. Non so che cosa ci salverà, un bel niente, ma insomma, facciamo finta. Speriamo. Allora, tu parli, hai parlato. E per questo appunto scrivo. Mi hai chiesto perché scrivo, e sì. Non lo so. Scrivo perché così sempre mi è rimasto questa cosa nel cuore. Ho sempre, come ho cominciato tantissimi anni fa, e ho continuato. sono stata anche così in città, scusate. No, non vuole lei parlare al microfono. Scusa, parlerò al microfono, farò anche questo per voi. Sacrificio. Vabbè, ecco, e questo appunto è la risposta a quello che mi hai chiesto, scrivo perché è il mio modo di essere. Ecco, questo posso solo dire. Mi sembra di dire quello che devo dire scrivendolo. E scrivendolo c'è una cosa di più che secondo me è molto importante. Il fatto di vivere in questa meravigliosa terra con tre lingue mi dà anche l'opportunità di tararmi, cioè di vedere quello che scrivo. Io scrivo in italiano generalmente, però cerco di tradurmi per vedere se tiene, ecco, e questo fatto per me è molto importante. Grazie. Prego. Ecco, tu hai parlato dell'importanza del viaggio, però anche delle proprie radici, giusto? Sì. Quindi casa, in quale percentuale per te? Sì, allora sicuramente tutto la mio, tutto quello che ho scritto, tutto quello che ho fatto in questi tantissimi anni di lavoro, visto che sono una giovincella, è chiaro che sono tanti anni che lavoro. E in tutti questi anni il viaggio è l'argomento essenziale del mio scrivere, è proprio questo andare, questo cercare le radici, e qui trovi, andando, cerco anche le radici del mio essere e cerco le radici di quello che mi circonda, ecco. Perciò le due cose sono molto legate, ma le radici non sono soltanto così radici strette e vicine a questo piccolo, grande, importantissimo, per carità non è una questione di importanza, a questo mondo, a questo dove, e mi è piaciuto moltissimo questa affermazione di io difatti parlo di dove noi siamo, soprattutto non di quando, cioè è questo il punto essenziale. Perché anche nel regno dei fani si dice che tornerà il tempo promesso dove una volta era, non quando una volta, dove, vabbè, scusate. Ecco, e questo paragonare queste radici, andare più in là come fanno gli alberi, che hanno queste radici che toccano, che si trasmettono, che trasmettono un albero all'altro, la loro conoscenza, le loro cose, le radici vanno lontane. La radice del mio larice, quello che ho a vivo di fascia vicino a casa mia, parla con gli alberi della montagna, parlano con tutti. Allora cercare le radici è questo mio modo di paragonare le mitologie e trovare questi agganci fra le mitologie antiche e quelle più recenti. Tutto qua. Tutto qua. Tutto qua si può dire. Infatti. Infatti nella prossima domanda pensavo appunto di dire questo, perché i Dolomiti sono la memoria fisica di queste terre, però appunto sono intrecciate a miti e leggende che hanno un dove, appunto, come hai detto, ma non un quando, come in tutte le fiabe, comunque sì. Questo, no? Perché riproporre questo patrimonio in una nuova rielaborazione? Allora, devo cominciare a parlare, insomma, la prima volta che io, il Regno dei Fanni non l'ho inventato io chiaramente, mm-hmm. Ecco, le basi sono lontane, chi se ne è occupato in maniera molto particolare è stato il Carl Felix Wolff, prima di lui tanti altri e dopo di lui ancora tantissimi altri. Beh, io ho cominciato, la prima mia approccio al Regno dei Fanes è del 1988, quando ho scritto questo monologo per attore, per un'attrice in verità, che era Mara Baronti, che è andato a Spoleto al Festival dei Due Mondi. Ecco, e lì ho cominciato a interessarmi profondamente del Regno dei Fanes in questo caso. Dopodiché la Mondadori mi ha chiesto di fare il primo libro che ho fatto per la Mondadori. Dopodiché non è finita lì, sono usciti parecchi altri libri, è uscito un libro per la Giunti nel 2005, molto bello, con l'Istituto Culturale Ladino insieme, abbiamo fatto questo libro illustrato da Fabio Vicentini, un bellissimo libro. E dopo ci sono state conferenze, ci sono state, come dicevi tu, chiacchierate con e poi teatro, perché ultimo, cioè, hanno fatto un altro teatro a Bolzano, Bonoldi ha fatto un teatro sempre sui Fanes, ci sono moltissime riprese e io sono convinta, e questo non me lo toglie nessuno, dell'importanza di portare questi racconti, questi poemi epici in questo caso, ma in generale questi racconti della nostra terra, per far entrare, per dare anche ai nostri giovani una identità. Io odio la parola identità, non mi piace, non c'entra, ma di dargli uno sfondo, di dargli un qualche cosa sulla quale basarsi, su quale costruirsi, ecco, meglio detto. Benissimo. Sono rimasta colpita, in particolare, per, no, che hai parlato, da una frase a pagina 8, che mi ha colpito proprio particolarmente, ed è: il pudore per la propria morte tenue insegnamento dei fanes. Me lo puoi spiegare? Allora, frase... dovete sapere che quando lei mi ha detto questa cosa, l'ha detta a me, dice: ah, mi è piaciuta moltissimo quella tua frase, dei dubbi, dove l'ho scritta? È vero o no? Sì. Allora metto, come non sai, a pagina 8. Terrorizzata, dico, ebbene sì. O comunque, è questo, vi leggo tutta la frase che forse è più interessante, se mi tieni tu quel, certo, quel bellissimo gelato, ecco, e dice così, aspetta che perdo le pagine perché non sono molto abile in queste cose, dico, ecco, ma potrà parere strano, ma proprio questa disponibilità alla simpatia verso gli assenti, questo popolo non c'è più, è finito. È anche ciò che ci spinge ad abbandonarci alla foresta, quale luogo denso di presente, mondo incantato e carico di significati. E poi vado avanti e dico, lì al posto dei fanes, appunto, ci sono le pietre, ci sono i posti, ci sono i luoghi che richiamano questo. Alla fine del libro, se chi lo vedrà, c'è una foto molto divertente, che è una mia foto, che è stata fatta e poi è stata portata anche a Trento, al festival, come si chiama, la montagna, comunque, ed è una foto fatta proprio a Pralongia, è una foto immersa proprio, io lì sono veramente incantata da questo momento particolare. E io ho scritto: il pudore per la propria morte, tenue insegnamento dei fanes, ultimo dono lasciatoci da questo popolo, ci permette di considerare questi luoghi come presenza assoluta che risalta e risplende dentro il vuoto luminoso dell'aria. È un dono che ci aiuta a districarci nel nostro mondo pieno e ci aiuta a vivere in fondo volentieri della sua complessità. Ecco, questa è la spiegazione di questa frase, è tutto qua. Almeno credo che sia la spiegazione, non lo so, ma se vuoi ci penso tutta la notte e poi te lo dirò. Va bene. Allora, torniamo al regno dei fanes, che si sviluppa su due livelli. Sì. Ecco, quello superiore, sulla terra, però anche quello nella terra sotterranea, sì, con le loro, sì, alleate marmotte. Sì. Ma qui il discorso è più complesso, perché nelle mitologie antiche c'è sempre molto importante, ed è un tema di grande attualità anche oggi, il discorso sulla metamorfosi. Le metamorfosi, e poi non solo, anche questa convivenza di uomo-animale. E le marmotte sono la rappresentazione delle donne dei fanes, sono le creature che abitano il profondo, come dicevi tu, eccetera, sono proprio i loro animali totemici. E allora c'è veramente questo legame con i vari mondi, il mondo superiore, il mondo degli uomini, il mondo profondo, che è quello delle marmotte, e poi nelle fane stesso ci sarà un altro mondo ancora, molto interessante anche quello, che è il mondo dell'aria e il mondo dell'aquila, che è l'altro alleato, l'altro totem, l'altro animale totemico dei fanes, del marito veramente, del re, ma comunque sicuramente sono questi animali totemici che fanno parte, che sono integranti, che fanno parte del regno dei fanes, che sono il regno dei fanes, non soltanto uomini ma anche animali e piante, naturalmente, e sassi e tutto questo. E il regno dei fanes sembra quasi un giardino dell'Eden. Manca il serpente? No, non manca il serpente, assolutamente. Il serpente c'è, anzi, è insegnato nella maniera più straordinaria. questo serpente è il spina de mule, asino putrefatto, ossa che si suona, cioè l'essenza delle montagne, è proprio la personificazione del male nelle antiche religioni. Ecco, questo è il serpente letto a livello del regno dei Fanes. Benissimo. Che poi proseguirà per tutto il periodo. Comunque. Poi, come ha detto prima anche Maria Pia, sette montagne, sette paludi, sette giorni per visitare il castello, sette le epoche del regno, c'è questo ricorrere del numero sette. I numeri magici veramente del racconto sono due, sono sette e nove, uh-huh. E sono tre e quattro o tre per tre, ed è sempre l'umano e il divino che si mescola, eccetera, questo vuol dire, uh-huh. Questa è la lettura, però in ogni racconto c'è questo sette e nove, sono veramente i numeri magici del racconto. Bene. Tanti sono i personaggi, i personaggi sono tantissimi, no? Del regno dei Fanes. A me in particolare è piaciuta Dolasilla, sì. Che è questa principessa guerriera che rinuncia al suo fatto di essere donna, madre, per essere guerriera e difendere il suo popolo. Ecco, no? E mi sembra molto interessante anche come personaggio, sì. A parte. Sono due gli spunti che si possono trarre da questo personaggio. Primo, che è una gemella. Lei ha una gemella che è Lusanta, e una gemella lunare. Lei è il sole, l'altra è la luna. Cioè sono i due aspetti, se vuoi essere, uh-huh. Insomma, essere un po' così, diciamo, facendoci un po' così, due aspetti della femminilità. Ecco. Dai, diamoci un po' di arietto ogni tanto non ci vuole. Ecco, e così, e primo. Ma secondo, questa principessa guerriera, a parte appunto il fatto dei gemelli, e poi viene fuori perché i gemelli e tutti i gemelli, e lì non finirei più. Io, d'altro canto, a questo ho proprio dedicato questo libro, cioè al tentativo di, oltre a dare il testo di questi poemi epici, anche a in qualche modo spiegarne, nella mia possibilità, quello che vogliono dire e tutto quanto, insomma, cioè fare una comparazione, una spiegazione scientifica, diciamolo così, di questi personaggi. Allora, Donna Silla è la rappresentante proprio di questa abnegazione, in qualche modo, della sua femminilità, l'hai detto uh-huh. prima, e della verità, per essere praticamente la mano armata di suo padre. Padre traditore, falso re, tanto che, e questo ritorna in tutti i racconti, in moltissimi racconti, la punizione per la falsità e l'inganno è quello di diventare pietra. Difatti il falso re diventa il falsarego, il passo del falsarego, che è il falso regge, il falso re che è diventato pietra. Così impara. Bene. Così impara e sta lì. Ormai non impara più. Sentiamo un'altra lettura. Si narra che dopo la morte di Dolasilla la guerriera iniziarono nove volte, nove anni di tenebra per la gente di Fanes. La regina madre stava nascosta presso i suoi alleati, le marmotte, e abitava la grande caverna del Monte Padon assieme alla gemella Lusanta. Con loro erano gli ultimi dei Fanes e due volte sette bambini, due rappresentanti per ogni stirpe. La regina vegliava nel cavo della montagna e tesseva ciò che era sparso. Il suo pensiero passava al di là della spessa parete della grotta e si spingeva fino all'isola lontana, dove il principe Aquila, suo figlio, dormiva un sonno senza tempo. Così lei aveva voluto. Grazie, grazie. Naturalmente qui comincia già il discorso, sono due discorsi importantissimi. Scusa se ho preso la parola senza lasciarti posto. due discorsi importantissimi. Uno è quello della tessitura, proprio la tessitura del racconto. Il racconto è proprio ordito e trama che viene tessuto, e i disegni che ci sono nel libro, che sono di mia figlia Nora, sono alcuni che riguardano proprio questo tessere, questo proprio tessere il racconto. Questo è uno dei due discorsi importanti. E l'altro è il fatto appunto che questa storia non poteva finire così, già il Wolf ne dà dei cenni e altri autori anche, doveva esserci una seconda parte, cioè un ritorno, perché la fine del primo pezzo, del primo regno dei Fanes, è questa regina madre che in una barca una volta all'anno va sul lago di Braies e aspetta il tempo promesso, come dicevo prima, dove sarà quello che una volta era. Ecco. E naturalmente c'è una speranza di ritorno, perché la regina madre ha avuto le gemelle, però ha avuto anche un figlio con un braccio solo, e qui c'è tutta una storia lunghissima che non vi faccio, se avete voglia e tempo di leggerlo, c'è scritto sul libro. Ecco la storia del principe Aquila, cioè il figlio maschio della regina, che naturalmente è colpito anche lui, non a morte come Dorasilla, ma colpito nella battaglia che è la fine del regno dei Fanes, viene portato dall'aquila, che è appunto l'animale totemico del padre del re dei Fanes, viene portato in quest'isola lontana. E la seconda parte, che si chiama appunto l'esilio, è una parte che viene raccontata non in una terra di montagna, ma addirittura in un'isola lontana. E qui si svolge tutta la storia, che poi adesso non andiamo a raccontare. No. Comunque finisce tranquillamente, finisce così, sia la prima parte che l'ultima parte, finisce con la sconfitta, con la perdita, con la morte, con la diventare assenti, diventare trasparenti, come dicevo prima, di questi personaggi dei Fanes. Ecco. Mi precede le domande. Scusami, sono proprio una violenta. E infatti volevo chiederti come mai riparte dal mare, violenta. No? Come mai riparte dal mare la seconda parte? Perché Gianni si parlava di quando parla della Limidona, i sette confini, ecco, e parlava di queste terre a cui lei, eccetera, si parlava già di mare. Cioè questo fantastico e leggendario, purtroppo, mondo dei ladini andava veramente molto lontano, andava fino al mare. Ecco, questo si voleva dire. Ecco, come dico, magari. Ecco. Allora adesso volevo passare al secondo racconto epico, con il canto che abbiamo sentito prima, per cui il canto cerchiamo di ricordarlo, e ci abbiniamo alla lettura di Maria Pia. Risiedeva un tempo in Verona un eroe di grande ardire che recava il nome di Teodorico. Ai suoi giorni nessuno gli era pari per forza e coraggio. Tutti i nobili signori lo onoravano. Un giorno il figlio di Wieland, un cavaliere prode e stimato, venne a corte e raccontò di un re che vive nei Monti Cavi, un signore di un popolo di nani, del quale si diceva fosse il più forte guerriero delle montagne. Un re nano che aveva un giardino di rose custodito da un solo filo di seta. Ne venne curiosità a Teodorico, e così fu che partì con alcuni suoi guerrieri alla volta delle montagne. Esatto. Nella leggenda, appunto, di Re Laurino, non si parla subito del protagonista. Praticamente si viene a conoscenza di questo re tramite un pettegolezzo, però insomma un racconto, così per caso si viene, non è subito il protagonista, è un modo inusuale, no? per le leggende, questo inizio, no? Dove il protagonista arriva dopo. Sì e no, perché uno dei protagonisti della grande epica dell'epoca, insomma, è sicuramente questo Diedrich von Bern, Teodorico da Verona, delle quali ci sono moltissimi racconti. Personaggio interessantissimo e rivisto poi persino da Carducci in fondo nell'ultimo, in uno dei suoi canti. Dove vai Sacra Corona, eccetera, eccetera, non vi recito che non vale la pena. Ecco, comunque volevo dirvi, e allora comincia con questo personaggio, ed è lui il personaggio di Teodorico, al quale i suoi cavalieri si rivolgono dicendo che ha vinto mille e una battaglia, Teodorico, però non ha mai vinto la battaglia, o non ha mai avuto l'avventura più straordinaria, che è quella di cimentarsi con un re, potentissimo, anche se di piccola statura, e qui sulla piccola statura ci si bisogna dire tante cose, se vuol dire che è un uomo della montagna, per cui eccetera eccetera, e anche qui ho scritto tutto un capitolo a proposito dei nani e così via. Comunque di questo re importantissimo e mago, come cantava, avete sentito prima, io sono Laurino, il grande re mago, perché lui ha dalla sua parte anche delle magie, ha un mantello, come diceva, che lo fa scomparire, una cintura che lo rende più forte di sette guerrieri, una spada infallibile e avanti, cioè tutte queste cose che appunto lo fanno il padrone di questa terra, la terra delle montagne, il grande, intorno a Rosengarten, e anche qui su Rosengarten ci sono molte discussioni se si tratta veramente del nostro Rosengarten, Giardino delle Rose, che è nelle nostre Dolomiti, o se, insomma, comunque, di questo meraviglioso Giardino delle Rose che è cinto, cioè il confine. E qui è una cosa meravigliosa, bellissima, perché voi sapete che anche Ucraina vuol dire confine in fondo. Ecco, e cioè questo confine, questa parola che ci portiamo dentro, noi siamo gente di confine, e questa parola terribile però non è cinto da mura, è cinto da un filo di seta, oppure, se si vuole una traduzione diversa, sai de è seta, o sai te è proprio lato, insomma, questo comunque ci dice che questo filo di seta è il confine di questo regno meraviglioso, un regno dove c'è un giardino strepitoso, un giardino fantastico, un giardino di rose, il giardino delle rose di Re Laurino. E lui, Re Laurino, è il re potentissimo di un grande regno, di miniere, naturalmente, con delle tesori grandissimi, ed è il padrone, e questa è la sua gente, lo dice il canto, e il canto viene, adesso qui una piccola parentesi, non posso togliermela, e con il maestro Isgro abbiamo fatto veramente un'opera, lui ha fatto la musica, io il libretto, di questa opera che si chiama Re Laurino, che stiamo insomma cercando, di cui avete sentito questo pezzo e sentirete un altro pezzo dalla nostra soprano poi. Ecco, e questa storia fantastica, allora la mia scrittura su questa storia, forse questo è anche interessante, si riferisce sia alle fonti sulla storia di Re Laurino, sul poema epico, che a questa opera che stiamo mettendo in atto, diciamo così. Ecco. Naturalmente come va la storia? C'è il combattimento, Re Laurino, c'è un personaggio femminile, e questo personaggio femminile è molto interessante, anche perché, e io forse lì non mi sono, ho dimenticato di essere un po' più prolissa, e ho scritto una volta Cunilde, una volta Crimilde, una volta Similde, perché in verità sono la stessa persona, cioè sono queste eroine al femminile, Hilde, queste donne eroiche, e che hanno queste variazioni nelle varie leggende, hanno queste variazioni di nome, comunque il personaggio è sempre lo stesso, ed è la figlia di un re straniero che il Laurino vede e della quale si innamora, col mantello magico riesce a rapirla, la porta nel suo regno, però la tratta benissimo. Succede che quando arriva Teodorico con i suoi cavalieri, uno dei cavalieri è il fratello di questa Cunilde, Chimilde, Similde, sempre lei, ecco, e vuole riportarla a casa. Ma lei dichiara che Re Laurino l'ha sempre trattata benissimo, che lei veramente non ha mai avuto se non onore in questo regno, e che si è sentita veramente la regina di questo meraviglioso giardino di rose. tanto che, e qui penso che sia, non so se è il momento giusto, ma penso di sì. Tanto abbiamo bruciato tutte le domande, vai tranquilla, non c'è problema. Non prendetemi proprio. Bruciate tutte. Parlo più. Ormai. No, sto scherzando. È veramente fantastico. Che vergogna. No, infatti è un patrimonio di personaggi che sarebbe bello, insomma, che andassero cantati come una volta, no? Come i menestrelli di qua e di là nei castelli, però intanto noi ne possiamo sentire. Ecco, sentiamo il canto di questa principessa, di questa deliziosa persona che sacrifica se stessa, in definitiva, sacrifica se stessa e diventa lei, diventa il giardino delle rose. Lei diventa il giardino delle rose. Ecco, e questo l'ho trovato meraviglioso come discorso. Poi non è finita, poi mi puoi fare le domande che vuoi, non parlo più. Beh, allora andiamo. Aia! Aia non c'entra, Thank you. per essere molto prosaici, due paroline sempre di questa canzone meravigliosa. Basta, basta e ancora basta, il mio onore è un falso impegno, Laurino con me mai fu indegno, questo di rose e fiori un regno, sterminato per un falso onor, per rose garden pietà, per rose garden pietà, pietà, io stessa mi trasformerò nel giardino e il regno rivivrà. Ecco. Solo per... Ecco, poi naturalmente adesso tocca a te, basta, non parlo più. Basta, basta. Non tocca a me, ma sentiamo l'ultima lettura. Addio, Rosengarten, lo dico con l'arte dei druidi, miei sacerdoti e fratelli, Glam dici, terra delle mie terre. Io ti maledico, mai, né di giorno né di notte, qualcuno potrà vedere lo splendore del mio giardino. Addio, montagna, addio. Glam, dici. Maledì le sue rose, che né di giorno né di notte possiate riapparire. Fu la maledizione di Laurino. Dimenticò il tramonto e l'alba, e all'alba e al tramonto le montagne di Laurino si rivestono del colore delle rose per sempre. Grazie. Grazie. La fine di questa storia. Come mai hai pensato di rivestire di musica la storia di Re Laurino? Come mai? Allora, in verità la storia è nata così. È stato Antonio Isgrò, il maestro Isgrò, che è venuto da me, è mandato da amici comuni a dirmi appunto se volevamo fare insieme questa cosa. E così ci siamo imbarcati in questa avventura. Ecco. Così è andata la storia. Comunque, sicuramente un tempo questi racconti erano alternati da letture e da canti, sicuramente, sicuramente. E l'altro elemento della quale tu prima hai parlato è l'elemento dell'illustrazione. Sì, sì, e anche questo è estremamente interessante, appunto, questo vedere come si può interpretare in maniera non con parole ma con il segno, diciamo sempre lì in fondo, ecco, e interpretare con il segno queste storie. Sì, infatti quello volevo chiederti, delle illustrazioni che sono molto particolari. Sono belle queste illustrazioni di questo libro, sono i bozzetti che aveva fatto mia figlia Nora per il lavoro di Spoleto. La prima parte, la seconda parte invece che riguarda Laurino sono più recenti e riguardano appunto la lettura di questo poema qui. Ecco. E per i bambini? Una versione per i bambini, ci hai pensato? Sì, allora, per una generosità particolare, devo dirlo, inutile che tu ti arrabbi, illustre editore Reverdito, lui è stato così gentile da lasciare che, siccome avevo avuto questa richiesta, di una casa editrice per bambini che si chiama Gallucci, con un illustratore che era già stato mio illustratore per il lavoro della Giunti con l'Istituto Culturale Ladin, ecco, abbiamo fatto questa versione per giovani lettori, si chiama così più o meno. Ecco, e questo è, il testo è ridotto, è fatto in maniera più semplice e speriamo che possa essere interessante anche questa. Ha delle illustrazioni meravigliose. Io non ho avuto nessun merito. Sì, è avuto il merito di darci questa sì, possibilità. Perché Gallucci perché è molto bravo, un editore bravissimo, sì, d'accordo, a fare questi libri per me. Io non sarei stato capace. Vabbè, insomma, comunque il mio editore Reverdito ha dato la liberatoria perché potesse certo essere fatto. E quello che va detto, va detto. Bene, quello bene, che è giusto bene, è giusto. Complimenti. Grazie ancora. Proprio illustrazioni meravigliose. Batta, ma no, io dovrei a voi invece che siete stati meravigliosi. Fate belle cose. Grazie. Vado fiorita a casa. Dammi qua, assaggiamo da qualche parte. C'è qualcuno che vuole fare delle domande particolari? Ecco qua. Benissimo, prego. Volevo sapere se i confini, quelli che sono segnati dal filo di seta, possono essere paragonati alle nostre mentalità e ai nostri pregiudizi. Ah. Sicuramente sì. Sì, sì, senz'altro sì. E comunque sono come questo filo di seta, sono facilmente rompibili. È molto facile distruggere questi confini. È molto facile arrivare a quello che siamo adesso. Ecco. Grazie. Domanda bellissima, grazie. Quanto tempo hai impiegato per fare questa, cioè queste ricerche, queste... Non lo so, da sempre. Da sempre. Tutta la vita. Sempre. Da sempre. Io mi sono da sempre interessata di questo mondo e questa è la mia terra e perciò da sempre. Da sempre. Si può dire che queste leggende siano una metafora di eventi storici accaduti? Ma sì, in qualche modo sì, come tutto il mito è praticamente dal mito si attinge al mito si ritorna. Certo, ci sono dei riferimenti storici, ma non solo storici, anche letterari, per esempio, non ne abbiamo parlato perché saremo qui fino a domani mattina, ecco, che è già abbastanza così, ma anche per esempio si narra nella prima parte del Regno dei Fannes di un regno sotterraneo d'oro, l'Aurona, no? Che è la caverna, di, non è niente altro che la caverna di Platone, tale e quale, e la storia è uguale, ci stacca una lampada e quello vede il cielo stellato e desidera, è uguale, e ce ne sono moltissimi questi riferimenti. Ma sono proprio, secondo te, presi, arrivati da lontano? O... Ma non lo so, perché... una parte sì e una parte no, io penso che siano anche insiti nel modo di pensare, cioè sono dentro nel cuore della gente, nel cuore del, ecco, in questo senso voglio dirlo, però certamente ci sono anche delle provenienze assolutamente documentabili. La barca, sì, l'eroe che ritorna, sì, certo, nel caso di certo, bisogno, certo, sì. Sì, gli incesti, poi tutto qua, certo, sì, tutto tanti, sì. I gemelli, come dicevo, ci sono moltissimi di questi temi. Di alcuni ne ho cercato di fare di trattarli, altri bisognerebbe farlo ancora. Insomma. È un viaggio. Volevo chiedere se ci sono delle differenze rispetto ai racconti che ha pubblicato negli anni passati, e poi la seconda domanda: perché secondo lei si sono mantenuti solo nelle Dolomiti questi racconti e non in un arco alpino più vasto? Forse perché, ma allora, ci sono variazioni non granché, cioè la storia è veramente come il nucleo, come kern, come nocciolo, come posso dire, come è veramente quella. Cioè la storia dei Fannes, la storia del Laurino è quella, non è un'altra che ne abbia raccontato un'altra io. E naturalmente anche il Wolf l'ha raccontata, cioè la storia è quella. Perciò variazioni ci sono sì, perché varia l'epoca e varia la scrittura, però io ho tentato, perché è sempre un tentativo, di fare quello che si doveva, cioè si è fatto già nel 1200, quando hanno cominciato a mettere per iscritto questi poemi epici che andavano veramente cantati, lei parlava appunto prima dei menestrelli eccetera, andavano cantati di corte in corte, di luogo in luogo, e ho tentato di far ho tentato di trovare una scrittura che fosse la più simile possibile a quella veramente della tradizione orale. Riuscito o no, non lo so. Questo è il mio tentativo. Lei mi ha chiesto se sono cambiati, io direi non tanto, però sì, in qualche modo sì, perché è un'attualizzazione nel mondo nostro, cioè una lettura di oggi. Ecco, sì. E poi mi aveva fatto un'altra domanda e me la sono dimenticata. Quindi questo dove? Ah, ecco, il dove mi sembra importantissimo, perché per noi è proprio un riferito ad una terra che è quella. E perché non nelle altre terre, nelle altre... Ma in alcuni luoghi ci sono racconti, ci sono anche, non poemi epici così, forse no, ma racconti molto interessanti in tutto l'arco alpino. E quando sono stata anni fa a Bever, che siamo stati ad un convegno, c'era anche mia figlia con me, ad un convegno sul racconto tradizionale in Svizzera, ecco, loro dicevano che le loro valli, non tanto le valli svizzere, ma quanto le valli vicine, cioè le valli praticamente lombarde o forse trentine o forse venete, eccetera, hanno perso questa... Io dirvi perché non so dirvelo, non so. Certamente nelle nostre tradizioni noi siamo così la terra che viviamo, noi siamo questi sassi qui siamo noi, perciò possiamo ancora parlare e raccontare di questi sassi e di farne delle immagini. Ecco, io credo che sia per questo. È un'idea mia, ma forse è così. Grazie. Grazie. Qualcun altro? Dimmi. Nani, giganti. Metafora dello scontro, incontro, sì. O metafora dello straniero? Cosa? I nani e i giganti sono metafora No. Sono proprio la descrizione di queste popolazioni alpine, che forse nani non erano, erano sicuramente lavoratori di miniera, eccetera, e il gigante è la magnificazione, l'ingrandire del personaggio, e questi sono personaggi della fantasia, sono personaggi dell'immaginario fantastico, ecco. Comunque non sono assolutamente delle limitazioni o delle accuse a qualche cosa, neanche persone. Grazie. Questo no. Andiamo a casa? Qualche altra domanda? Dimmi. Ho messo a mia moglie che hai una dedica. Nessuno ha da fare un'altra domanda? Salutiamo? Tutti quanti allora. Ringraziamo, volevo chiedere però, non so se posso, a finire ladinamente, ce la fai a leggere quel pezzettino, Margherita, quel pezzettino in ladino? Te gavoia o noi? No, lasciamo stare. Non c'è ancora. No. Te lo faccio vedere. Che è un pezzo. Io nel ladino non mi avventuro. No, spero bene. Così si tramanda, immagina 130, se vuoi, e se no non importa, adesso faccio la dedica alla Ezza, con questa penna meravigliosa. Vuole venire qua col microfono? Se qualcuno vuole le dediche, lo dica però. Vabbè, certo, chi ha preso il libro vuole la dedica, solo che è qua, lo devo leggere almeno una volta perché non l'ho mica visto. E vecchio, sai. Dov'è? Non mi ricordo più, te lo dico. Anche le dante vienette, le crepe, le ven rosse, il nes, veia, si sai, anacontia. Te ne leggo tre righe. Tre righe, tre, sì. Per favore, ascoltate giusto. Il ladino, tre righe. No, giusto per... Giusto per il lecchetto. Per dare un assaggio. Giusto per il lecchetto. Ecco. Ti piace il lecchetto? Parola una vita per lo sentire. Ecco, adesso l'hai sentito. Ci fa il lecchetto. Se mi trovo bene. Dov'è il mio amico? Non ti vedo. Vadi dottò. Can che le dantardie nette, le crepe, le venne rosse, il nös, veglia si sei anacontia. sa cani in chi tempes che non era né sassun, né can che non era né assassins né vere e che duc stasia bene. Non c'erano né assassini né guerre e tutti stavamo bene. Non so se è vero però, per questo ho dei miei grossi dubbi, perché secondo me...